come potrebbe essere declinato il concetto di profitto e di capitalismo per il nostro Peppe Lange, vi facciamo sentire un pezzo di un grande gruppo italiano che cioè, parliamo di capitalismo, quindi penso che va bene questo. Vai Peppe Lange. Io ho 23. Senti. Quando ero piccolo, tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene, ed io non stavo bene. Soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone. Sì, perché il pene mi dà pane, sono diventato un grande attore, e benché schiavo dell'amore, mi sono comprato una moto, e ora sono schiavo della moto, non faccio più moto. In effetti vado solo in moto, ma ora son diventato un mito. Ho rilanciato il muto, perché sono muto. E se vedrete il filmato, sicuramente converrete con voi che questa è verità. Ho la critica e concorde, né rida né disugio, perché non hanno capito, non parlo perché sono rapito, e poi in faccia non sono mai quadrato, e ora il pubblico son venerato, e ora sono diventato un mito. Abbiamo sbagliato, c'è stata un'interferenza, gli alieni, cioè, e io voglio questo pezzo l'abbiamo un po', come dire, c'è stata un'interferenza, non ci assumiamo la responsabilità. Ecco, per continuare il discorso di prima del sindacato, ora vorremmo dedicare appunto quest'altro pezzo ai compagni della FIOM che all'interno del sindacato portano avanti la loro battaglia per unire per i diritti dei lavoratori e per non solo perché i diritti siano di nuovo una cosa che ci permette di andare avanti, e facendo questo hanno dato importanti aperture ai movimenti ambientali, ai movimenti degli studenti, a tutti i movimenti.